Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. La retorica del cervello in fuga l'abbandonerei in nome invece di un tema della mobilità che ormai no, la parola chiave della nostra società contemporanea. Certamente fare un'esperienza all'estero anche durante la scuola e non solo durante l'università può essere una grande opportunità, ma non perché si trovi all'estero qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo nel nostro sistema educativo. Andare e tornare deve essere insomma l'obiettivo che anche l'Italia si pone per i propri giovani, per i propri studenti. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Siamo partiti subito dalla frase della settimana, copyright del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, intervistata da Maria Piera Ceci. La Giannini ha commentato così i risultati dell'indagine svolta da scuola.net in collaborazione con Radio 24, che restituisce un quadro impietoso e di sfiducia dei nostri studenti di terza media verso il paese. I ragazzi guardano già all'estero. Per uno su tre, dice la ricerca, è importante che l'istituto superiore lo prepari agli studi universitari prima e al lavoro dei sogni poi, e se un impiego non lo si trova ora, quando la disoccupazione giovanile è ancora al 37,9%, ben 7 su 10 temono di non trovarlo neppure tra 5 o 10 anni, e quindi già fin d'ora ben 3 ragazzi su 4 con una forte incidenza femminile dicono di avere intenzione di andarsene dall'Italia. All'estero ci sono più probabilità di realizzare i propri sogni. Per quanto riguarda invece la puntata odierna, contro esodati, architetti e Cina nel menù del nostro programma, per una trasmissione che si aprirà negli Stati Uniti e si chiuderà in Estremo Oriente. Capitolo ordini professionali da svecchiare. C'è chi ci prova, un compenso minimo per commercialisti, notai ed avvocati che effettuano il praticantato o che collaborano in esclusiva con uno studio a partire dal sesto mese di attività e nuove regole. Queste sono alcune delle istanze presentate dai sindacati dei professionisti under 45 di dottori commercialisti, avvocati e notai, confluite in una proposta di legge bipartisan. Il percorso della norma però si presenta in salita, poiché per ammissione degli stessi proponenti non è piaciuta a nessuno degli ordini. Chissà come mai, viene da pensare, nel paese del Gattopardo. A proposito di ordini, oggi abbiamo una rappresentante delle nostre professioni regolamentate, solo che lui ora vive nel sud-est asiatico. Così ci spiega perché, dopo aver provato una carriera sia in università che nel privato, ha deciso di lasciare l'Italia. Mancava progettualità in un percorso di crescita professionale, quindi assenza di traguardi e chiaro percorso appunto di carriera. Pier Francesco Perini, 37 anni, è un architetto a lavoro a Singapore. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Un antipasto di controesodati per cominciare con la storia del giovane talento dell'animazione Francesco Filippini, che a soli 22 anni ha ricevuto dalla storica Società degli Illustratori Americana la medaglia d'oro per il suo lavoro come art director nel cortometraggio The Loneliest Stoplight di Bill Plimpton, re dell'animazione indipendente mondiale. Francesco ha lavorato all'estero, ma a differenza di molti cervelli in fuga ha preferito tornare a Napoli per preparare il suo primo cortometraggio, Simposio Suino in Re Minore, in uscita a giugno. In bocca al lupo! E ora è la quinta puntata della rubrica Controesodati. Oggi vi proponiamo una bella storia, quella di Silvia Giordani, ricercatrice, attualmente direttrice del laboratorio di Nano Carbon Materials in uno dei nostri centri d'eccellenza, l'Istituto Italiano di Tecnologia, a coronamento di una lunga esperienza nel mondo anglosassone tra Stati Uniti e Irlanda. Silvia ha 42 anni, un racconto il suo davvero tutto da ascoltare. Vi ricordiamo che la rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'associazione iTalents, dalla cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo per info italents.org. Ora la storia di Silvia Giordani. Sono uscita innanzitutto perché ero curiosa. Io penso che l'ingrediente base di tutti noi ricercatori è la curiosità. Quindi la curiosità di conoscere posti nuovi, confrontarmi con nuove culture, nuovi mondi. Quindi sono andata in America soprattutto ad imparare. E ho fatto un'esperienza di dottorato di ricerca, quindi ho imparato poi la professione del ricercatore. Poi dall'America in Irlanda, è corretto? Dall'America in Irlanda, sì. Dopo 4 anni di dottorato negli Stati Uniti ho deciso di tornare in Europa. E grazie a una borsa Marie Curie sono rientrata e sono andata al Trinity College di Dublino per una esperienza di postdoc prima di 3 anni. Poi ho cercato di rientrare in Italia, avevo fatto un bando sempre Marie Curie che si chiama Reintegration Grant, sono tornata in Italia un anno a Trieste ma contemporaneamente avevo mandato una proposta per un premio molto competitivo internazionale e l'ho vinto, il premio del giovane ricercatore, e la presidente d'Irlanda me l'ha consegnato con questo premio, un grosso fondo, 1 milione di euro per mettere sul mio laboratorio al Trinity College. Quindi sono tornata in Irlanda, dove ho passato altri 6 anni. E al termine di questi 6 anni, immagino comunque che l'esperienza all'estero sia stata sia in America che in Irlanda positiva. Molto positiva, sì. Ecco, sì, però dopo 13 anni decidi di tornare in Italia. La prima domanda è perché? Sì. Ho sempre voluto tornare in Italia perché il cuore non si è mai spostato. Io sono molto affezionata al mio paese, alla mia gente, alla mia famiglia, ai miei amici, quindi quello l'ho sempre saputo, che volevo tornare. E secondo, volevo riportare un pochino tutto quello che avevo conosciuto, imparato, questa voglia di tornare e portare, dar qualcosa, tornare al mio paese quello che avevo imparato in tanti anni all'estero. Quindi gli americani direbbero give back, cioè ridare qualcosa. Esatto, pay it forward, dicono anche, sì, give it back. Sì. È stato facile o difficile tornare? Diciamo che ho avuto ho trovato la situazione giusta per tornare, perché dopo tanti anni all'estero, una carriera comunque accademica di un certo tipo, tornare in Italia, volevo tornare nel momento in cui avrei avuto le stesse opportunità e avrei potuto continuare a fare la mia ricerca, portare avanti diciamo le linee di ricerca che mi stanno a cuore e quindi avere una certa indipendenza. E indipendenza significa anche, quando uno è un capo di un laboratorio di chimica e nanotecnologie, significa ovviamente fondi. Quindi nel momento in cui ho trovato l'istituto, in questo caso l'Istituto di Nanotecnologia, che era sicuramente all'avanguardia, aveva i macchinari che mi servivano per portare avanti la mia ricerca, mi dava l'indipendenza e questa posizione di responsabilità, ho trovato, diciamo, tutte le componenti. A questo punto è stato facile. In questi anni in cui poi sei tornata in Italia, che idea ti sei fatta più in generale dello stato della ricerca nel paese, quindi al di là anche dei poli di eccellenza, soprattutto anche in termini di valorizzazione dei ricercatori? Allora, sicuramente in Italia abbiamo moltissimi ricercatori molto bravi, quindi abbiamo ancora delle grandi teste, come le chiamo io, quello che secondo me ancora un po' manca è il discorso valorizzazione, ossia anche l'investimento. È importante che si capisca che la ricerca e lo sviluppo sono fondamentali per un paese, per tirarsi fuori da una crisi economica. Siete controesodati, volete raccontarci il vostro rientro nella penisola? Scriveteci giovanitalenti@radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta fin nel lontano sud-est asiatico, destinazione Singapore, per raccontarvi una storia di espatrio professionale e familiare. Nome: Pier Francesco. Cognome: Perini. Età: 37. Città di origine: Civita Castellana Viterbo. Studi: architettura e dottorato di ricerca in disegno industriale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2014. Per andare dove? Singapore. Perché? Cogliere una nuova sfida professionale. Qual è il lavoro svolge attualmente? Store Concept Manager. Dove? Singapore. Tornerai? Forse. Shine for Singapore. This is our song. Reach out for the sky. Oggi abbiamo messo tutto il passato alle spalle e guardiamo fiduciosi al futuro. Ci siamo scrollati di dosso tutta la pesantezza accumulata negli anni di quel pessimismo cosmico che è stato il tratto distintivo dell'Italia nell'ultimo decennio. Così scrivevi Pier Francesco alcuni mesi fa nella tua prima lettera a giovanitalenti@radio24.it. Non voglio farla troppo semplice, ma ti chiedo: andarsene dall'Italia è, secondo te, e lo chiedo ancora provocatoriamente, la soluzione per tutti i problemi? No, non credo sia la soluzione a tutti i problemi, anzi in realtà significa farsene di nuovi, perché bisogna mettersi in gioco ed affrontare realtà nuove di ordine pratico e non solo. Dopo la maturità scientifica ti iscrivi all'architettura. Quale passione ti porta su quella strada? Ma l'architettura per me era una disciplina che mi interessava perché racchiudeva l'aspetto umanistico, scientifico, le scienze sociali e quindi, diciamo, una materia interdisciplinare che poteva dare molte prospettive. Inizi ad Ascoli Piceno, poi in cerca di ulteriori stimoli ti sposti a Roma, dove concludi gli studi nel 2003 laureandoti con lode. Prima di approfondire il tema carriera in università, allora ti chiedo: qual è il tuo voto all'insegnamento accademico, però visto da studente? 8,5, perché sicuramente mi ha fornito un bagaglio culturale che oggi ancora utilizzo per affrontare il lavoro e la vita. Sono convinto che l'università debba essere scissa dal mondo del lavoro in questo senso. Sognavo una carriera accademica, lo studio e la didattica erano la mia passione, ricordi. A soli 25 anni in parte questo sogno si realizza, ottieni un contratto di docenza universitaria per un corso di 30 ore e vinci anche il concorso per un dottorato di ricerca alla facoltà di architettura. Tutto apparentemente a posto. Sembra. I problemi però cominciano con la borsa di studio che non ti viene assegnata. Perché? Questo in realtà non è nulla di strano per chi conosce le dinamiche accademiche, mentre sarebbe scandaloso in altri paesi europei o del mondo. Il problema è che le commissioni di valutazione vengono composte da professori nominati dalle sedi banditrici e la maggior parte dei candidati appartengono a quella stessa sede. Io non appartenevo a quella facoltà, quindi è chiaro che non avendo padrini difficile essere vincitori. E non avevi padrini, hai detto giusto. Così, senza borsa di studio ti devi arrangiare per mantenerti, collaborando anche con studi di architettura. Dopo il PhD provi altre due strade per proseguire la tua carriera universitaria: gli assegni di ricerca e i concorsi per ricercatori. Ma anche qui la delusione è grande. A chi vanno gli assegni normalmente? Anche qui ci troviamo di fronte a un sistema dove le regole che dovrebbero garantire la trasparenza sono solo un paravento. Quindi i vincitori sono i soliti noti in waiting list per altri posti nel frattempo. E come vengono banditi i concorsi? Ti sei tra l'altro candidato a un paio di questi, ma sapevi già chi li avrebbe vinti? Com'è possibile? Ma il sistema è forse un po' più complesso per i ricercatori, ma è solo un problema di trovare i giusti accordi ed avere un coordinamento più esteso tra le sedi universitarie. Quindi è uno scambio di favori, fondamentalmente è così. Un'enorme lista d'attesa, una waiting list in cui piano piano si entra, però entrano quelli che hanno accumulato più secondi posti, così l'hai riassunto bene nell'email che c'è scritto, no? Sì, è un po' un credito da esibire, perché comunque chi partecipa non è che non sia meritevole, è il sistema che è completamente sballato, diciamo. Così, dopo i soliti incarichi annuali di docenza, decidi di cambiare. Prima di abbandonare il capitolo università, una domanda: consiglieresti a posteriori e in tutta onestà una carriera universitaria a un giovane collega con le tue stesse aspirazioni in Italia? Assolutamente sì. Per due motivi. Il primo è che credo che le aspirazioni non vadano mai represse, specialmente se si è giovani e si ha voglia di fare. E il secondo è che la speranza che il sistema diventi equo e sia veramente meritocratico e trasparente non deve mai morire. Non potevo permettermi di aspettare 10 anni per diventare ricercatore, rifletti. Volevi costruirti una vita e una famiglia. Dopo 6 anni di attesa, abbandoni l'università e passi al settore privato. Store designer, prima a Como, poi a Milano, quindi ti trasferisci. Quanto è stato semplice il salto? È stato rimettersi in gioco, ricominciare da zero e imparare a interfacciarsi in un settore dove comunque si viene misurati su parametri e dinamiche diverse. Quindi non è stato semplice, ma neanche troppo complicato, diciamo. Riuscii a trovare una stabilità lavorativa, ma le prospettive di crescita erano limitate e non mi soddisfacevano. Sono stati anni duri, avrei potuto accontentarmi di un contratto a tempo indeterminato, che per molti, è vero, era un miraggio, ma non è nella mia natura, consideri. Allora, torna con te il tema dell'accontentarsi. In Italia bisogna scendere necessariamente a questo compromesso? Purtroppo sembrerebbe di sì, soprattutto quando ci si confronta anche con gli amici, colleghi, ex compagni di studi che hanno scelto di accantonare sogni e aspirazioni perché annichiliti al sistema. Cosa non ti soddisfaceva in particolare di quel lavoro? Ma mancava progettualità in un percorso di crescita professionale, quindi assenza di traguardi e chiaro percorso appunto di carriera. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Alla fine del 2013 ricevo un'offerta di lavoro come store concept manager di un'azienda internazionale con base a Singapore. Con un po' di incoscienza e il sostegno della mia compagna, colgo la sfida e mi trasferisco in Asia, dove divento responsabile dello sviluppo e gestione degli store concept per i mercati emergenti. Allora, cosa ti spinge, Pier Francesco, a questa sulla carta follia, avendo tra l'altro tu figli molto piccoli all'epoca? Sicuramente una posizione lavorativa che rappresentava una grandissima opportunità professionale che mi ha portato a girare veramente tutto il mondo e a confrontarmi con culture e in realtà prima di allora sconosciute, e poi la possibilità di offrire anche ai miei figli per l'appunto l'occasione di vivere un'esperienza internazionale che gli dia poi delle, speriamo, prospettive e opportunità in futuro. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Pier Francesco Perini, 36enne architetto a lavoro a Singapore. Ci prova in tutti i modi Pier Francesco a fare carriera in Italia, prima in università sbattendo contro i muri ancora troppo spesso impenetrabili della nostra accademia, poi nel privato dove non trova però il giusto contesto utile a stimolarlo e motivarlo. Così fa quella che continua a posteriori a giudicare una follia, molla tutto e si trasferisce a Singapore accettando una una proposta di lavoro finita che vi ha trasferito tutta la famiglia nel sud-est asiatico. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. È interessante anche poi l'ambiente lavoro che trovi a Singapore, multiculturale, sfidante, pragmatico, ma ti chiedo soprattutto quanto vedi riconosciute capacità e merito lì. Sì, è un contesto molto snello, molto fluido, anche informale, sempre rivolto all'insegna del risultato, dell'efficienza. In estrema sintesi posso dire che si bada sempre molto al sodo e non c'è spazio per sofismi e giri di valzer che spesso sono un po' il limite che abbiamo nelle aziende italiane. Il merito e la capacità sono altamente riconosciuti e sono in realtà un valore integrale della società singaporiana che lo promuove sin dall'età scolare. Sofismi e giri di valzer è una bella definizione degli ambienti lavorativi italiani. Un capitolo a parte merita la tua storia familiare. Dopo 5 mesi ti raggiungono moglie e figli e tua moglie, inizialmente scettica, capisce. Anzi, anche per lei cambia la vita, come? Sì, chiaramente c'erano molte remore e molti timori, perché trasferirsi lontano da casa con 2 bambini piccoli in un luogo completamente nuovo e sconosciuto era una grossa incognita. Però dopo pochi mesi anche lei ha capito che in realtà non era un'incognita, era un'opportunità. E un'opportunità che questa città le ha dato e che probabilmente in Italia sarebbe stata negata da quelle che sono le difficoltà economiche croniche e anche dal fatto che una donna con 2 figli oggettivamente si trova in una posizione di svantaggio nel mondo del lavoro italiano. Quindi dopo poco si è inserita nella città, nel contesto, e è riuscita anche a trovare una nuova posizione lavorativa, chiaramente consona anche col suo background di studi. Tornereste mai in Italia? E se non tornerete, chi perde e chi vince nella morale di questa storia che abbiamo raccontato oggi? Torneremo per quanto riguarda i legami affettivi, no per quanto riguarda il lavoro. Chi vince e chi perde è una domanda difficile, perché è una situazione lose-lose nell'ottica in cui comunque sono cresciuto, nato e ho studiato in Italia, quindi non sto rendendo al mio paese ciò che mi è stato dato. Lo stesso vale per Silvia, ma nella prospettiva personale è una situazione in cui chiaramente abbiamo assunto dei rischi e questi rischi oggi ci stanno ripagando con dei risultati, quindi è un bilancio assolutamente positivo per voi, me, per mia moglie, per i miei bambini. Forse non per il paese che vi ha perso. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire? Vedo un paese che si parla addosso, che non affronta in maniera concreta i problemi, che difficilmente possiamo spiegare ad amici e colleghi, perché si incaglia veramente su questioni che sono veramente incomprensibili viste da qui. Le imprese, secondo me, come proposta concreta, le imprese italiane dovrebbero imparare di più a fare network, a essere capaci di vendere il made in Italy come valore comune e tratto distintivo, lasciando, come dire, un po' alle spalle l'arroganza, la presunzione che a volte ci portiamo dietro. L'internazionalizzazione delle aziende, ecco, è il vero tema, non deve rimanere uno slogan, ma va tradotto in qualcosa di concreto, e in questo, ecco, anche noi giovani manager che siamo all'estero potremmo in qualche modo restituire al nostro paese ciò che ci è stato dato prima. Ci raggiunge ora in linea Pippo Ciorra, curatore per l'architettura del Museo Maxi Roma e autore del libro Senza architettura, le ragioni di una crisi. Buon pomeriggio, Pippo. Buon pomeriggio a tutti. Pippo, Pierfrancesco è stato uno dei tuoi studenti. Che effetto ti fa risentirlo ora da Singapore? In un paese normale sarebbe stato l'unico epilogo possibile, in tutta onestà. No, innanzitutto mi fa un ottimo effetto, perché lo sento molto maturo e consapevole, padrone del suo destino, e questo è sempre un ottimo risultato, no? Per chi forma giovani. Ovviamente questo non dovrebbe essere l'unico esito possibile, anche se non c'è niente di male in questo esito. Andiamo per gradi, una forte delusione la riscontriamo fin dalle porte sbarrate in accademia, contro cui lui ha sbattuto. In Italia, ti chiedo Pippo, è così impossibile per un giovane architetto trovare la propria strada in università in modo semplicemente meritocratico? Ma diciamo è molto difficile, ma non è, diciamo, adesso è difficile dire uno lo merita e un altro no. Diciamo che c'è una programmazione molto sbagliata, a parte tutti i vizi di abitudine a cui faceva riferimento Pierfrancesco, perché per esempio le scuole italiane per ogni materia producono centinaia di dottori di ricerca che ambiscono a una carriera accademica ogni anno e poi offrono 10-15 posti, quindi c'è una moria quasi inevitabile. Io poi, che sono un figlio di quei secondi posti di cui parlava Pierfrancesco, che ne ho presi tanti prima di entrare, lo capisco benissimo, però il problema è di sistema, non è tanto, non è solo il problema morale o della baronia, eccetera. E poi c'è un chiaro problema nel mondo del lavoro, la storia di Pierfrancesco lo dimostra: adattarsi oppure andarsene dall'Italia se le ambizioni sono maggiori rispetto alla realtà. Ci dobbiamo rassegnare a questo o vedi segnali di speranza, almeno ultimamente? Le cose si muovono, ma molto molto lentamente. Mi pare che, diciamo, ovviamente una condizione di crisi, cioè la debolezza estrema del sistema pubblico nel nostro paese, fa sì che certe dinamiche del settore privato si affermino. lievemente di più è che ci sia qualche barlume qui o là di meritocrazia, però ovviamente di questo passo ci metteremo troppo tempo rispetto a come cammina il mondo, quindi se uno ha un bisogno personale di vedere riconosciute le proprie ambizioni, quasi non ha alternative nel nostro mondo. Il mondo corre e non possiamo noi invece camminare. Piccolo flashback con te, Pippo, per ricordare la mostra Erasmus Effect, che ha chiuso i battenti 2 anni fa al Maxi e di cui Radio 24 e Giovani Talenti sono stati media partner. Allora, quella mostra raccontava storie di giovani architetti che, grazie all'Erasmus e al contatto con l'estero, si sono contaminati positivamente. Qual è il bilancio a posteriori per Erasmus Effect? Mi pare che avevamo individuato insieme un fenomeno reale che è ancora crescente. Mi pare che Erasmus forse è stata radicale per difetto, che il fenomeno sta ancora crescendo, che i più bravi tra i miei studenti continuano ad andare all'estero perché è l'unico modo, non tanto per sopravvivere ma anche quello, ma soprattutto per vedere realizzate almeno un po' le loro ambizioni. Quindi dovremmo rifarne un'altra ancora molto più grande. Qual è allora il tuo personale consiglio a un giovane architetto che prende oggi una laurea? Restare o andarsene senza però la certezza a questo punto di un ritorno? La risposta da dare è piuttosto brutta e cinica, nel senso che se uno ha risorse infinite, solidità ampia e non necessità di guadagnarsi da vivere, come abbiamo dovuto fare in molti, si può anche restare e cercare lentamente, ma soprattutto si può cercare di lavorare in rete, no? Ci sono studi di architetti in cui uno sta a Roma, uno sta a Madrid e un altro sta a Berlino, tra molti dei miei studenti. Se deve mettere insieme sopravvivenza e realizzazione, purtroppo oggi deve andare via. Però ecco, il consiglio che darei è quello di cercare di non considerare i confini, cioè di lavorare insieme con i propri colleghi, di utilizzare i network per stare nel mondo e non stare in Italia, anche partecipare alla competizione nel mondo, quindi concorsi, le opportunità di lavoro, le cose. Bisogna, come dire, non ricordarsi tanto di dove si sta ed essere in uno spazio un po' internazionale. Questa è una buona ricetta, segnatevela. Grazie a Pippo Ciorra e in bocca al lupo per il tuo lavoro. E domanda di rito a Pierfrancesco Perini: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Se sta pensando a un espatrio, credo che sia già a metà dell'opera, quindi non dovrebbe avere troppe perplessità e intraprendere senza paura questo percorso, ma deve avere ben chiaro che non si tratta assolutamente di una scorciatoia e che all'estero nessuno ci attende a braccia aperte ed è in nostra attesa. E l'altro consiglio è di integrarsi assolutamente il più possibile nella società e nella cultura in cui va a inserirsi. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi facciamo ascoltare la puntata mensile della nostra rubrica L'Ideogramma, osservatorio sulle opportunità in Cina. Emanuela Verrecchia ci mette in guardia dai possibili rischi di uno stage in Estremo Oriente. Non solo, infatti, si rischia di non venire retribuiti, ma a volte si deve persino pagare, e tanto, per fare questi stage. Oggi parliamo di come trovare uno stage in Cina, e quindi il discorso è rivolto soprattutto ai neolaureati o laureanti iscritti all'ultimo anno di università, anche solo di una laurea breve. Per iniziare io consiglio di partire sempre da una ricerca generica su Google con delle semplici parole chiave come stage in Cina o il corrispettivo in inglese internship in China. Ci sono fondamentalmente tre modi per trovare uno stage in Cina: attraverso l'università o il master, o contattando direttamente le aziende. Purtroppo questa modalità sta diventando molto complessa a causa delle restrizioni sui visti, o ancora rivolgendosi a delle agenzie di lavoro specializzate. Ecco, quest'ultimo tipo di agenzie oggi ha stravolto un po' il mercato del lavoro per i giovani, perché si è arrivati al paradosso che non si lavora più per essere pagati, ma si paga per lavorare. E qualche mese fa anche nel mio gruppo di discussione su LinkedIn Italiani in Cina c'è stato un dibattito piuttosto acceso sul punto. Uno stage in azienda in Cina, a Shanghai ad esempio, può costare quasi 6.000 euro per 3 mesi e circa 8.000 per 6 mesi. In queste cifre è compreso solo il volo, l'alloggio che è condiviso con un altro stagista e il visto. Queste agenzie promettono percentuali del 50-85% di assunzione dello stagista presso la stessa azienda in cui si è svolto lo stage o presso l'altra azienda, ma occorrerebbe andare a vedere che tipo di assunzione è. Per concludere, segnalo 2 articoli utili e divertenti da saporedicina.com. Il primo articolo dal titolo Stage in Cina, cosa ti offre e come trovarlo, che spiega tra l'altro come riconoscere alcune delle